Secondo le scritture, Gesù Cristo dovrà ritornare dai cieli. Il Figlio di Dio assunse un corpo. Circa 2000 anni fa. Egli nacque a Betlemme, visse a Nazareth, morì e risorse, il terzo giorno dalla sua morte, a Gerusalemme. Quando salì in cielo, Gesù disse ai suoi discepoli che un giorno sarebbe ritornato dai cieli per regnare sulla terra. Poiché Gesù non disse nulla di totalmente nuovo, che non fosse scritto già nella legge di Dio, troviamo questa profezia nel libro del profeta Zaccaria, scritto circa 500 anni prima dell'affermazione di Cristo. Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord, e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azzal. Sì, fuggirete come fuggiste. Davanti al terremoto, ai giorni di Uzzia, re di Giuda, così l'Eterno, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi saranno con te. Zaccaria 14, 1-4. Il contesto della profezia ci fa comprendere che, in un periodo di particolare sofferenza per il popolo di Israele, l'Eterno tornerà posando i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme. Egli non sarà solo, ma verrà con i suoi santi. Non vi è fuor di dubbio che chi poserà i piedi sul Monte degli Ulivi sia Cristo Gesù e che i santi che sono con lui siano la Chiesa che egli avrà rapito precedentemente. Questo viene spiegato molto chiaramente da Paolo nelle sue lettere. Il profeta Zaccaria profetizzerà pure che, dopo il suo ritorno sul nostro pianeta, Cristo Gesù regnerà quale autorità sopra tutta la terra. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Zaccaria 14, 9. Proprio perché Cristo Gesù regnerà sulla terra, egli darà a coloro che avranno creduto in lui l'autorità di regnare su delle città. Questo viene spiegato molto bene nella parabola dell'uomo nobile che va in un paese lontano, descritta nel Vangelo di Luca al capitolo 19. Disse dunque: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E, chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata, dicendo: «Non vogliamo che costui regni su di noi». Ora, quando fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse: «Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine». Ed egli disse: «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città». Venne poi il secondo dicendo: «Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine». Ed egli disse anche a costui: «Tu pure sii capo di 5 città». Venne poi un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato». E il suo signore gli disse: «Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse». Disse poi ai presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Ed essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui i miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Ai discepoli, Gesù rivolse le seguenti parole: Or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, ed io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, 28-30. Non vi è dubbio dunque per chi ha posto fede in Gesù che vi è un avvenire alquanto glorioso. Questo fatto ha indotto alcuni credenti ad affermare che un giorno tutti i credenti regneranno con Cristo. Conclusione, questa che ha del vero, ma che deve essere messa a fuoco, perché le mezze verità sono impeccabilmente precise nel contenuto ma fallose nelle conclusioni. L'Apostolo Paolo non dà per scontato che tutti i credenti regneranno con Cristo, anzi, stabilisce con certezza proprio il contrario. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. 2 Timoteo 2,11-13. Paolo afferma che ciò che sta dicendo è vero, fedele. Cioè che vivremo con Cristo a condizione che siamo morti, che Gesù Cristo rinnegherà chi lo rinnega, che rimane fedele anche se siamo infedeli. Regneremo con Lui a condizione che perseveriamo con Lui nelle sofferenze. Quindi, come vi sono delle condizioni per restare vivi e per essere di conseguenza rinnegati, così vi è una condizione per regnare con Cristo. Il regnare con Cristo è quindi condizionato dalla nostra costanza, e i credenti che non saranno costanti, che non persevereranno, non regneranno. Dove saranno se non regneranno? Saranno presenti con tutti i figli di Dio durante il regno di Cristo, apparterranno al regno di Cristo, ma non a tutti sarà dato di regnare. Poiché non saranno stati vittoriosi su questa terra, sulle tentazioni, il peccato, nel servizio, non sarà loro dato alcun compito di governo durante il millennio. È molto importante tenere ben presente questo aspetto per ragionare correttamente riguardo alle profezie. Se vi è un errore tra un certo numero di figli di Dio, è proprio quello di pensare che, una volta salvati, essi abbiano raggiunto la meta e che ogni promessa futura è già assicurata. Nulla di più fatale. Se fosse così, non vi sarebbe più nessuno stimolo per ambire altre mete. La vita cristiana ci è proposta, invece, come una gara. Ebrei 12:1. La condotta d'oggi come credenti influenza in modo determinante la nostra vita nell'eternità. La vita terrena è un banco di prova per la nostra idoneità a regnare con Cristo. Questo concetto non è nuovo nella parola di Dio. Anche il vescovo, se non sa governare la propria famiglia, non è idoneo a governare la Chiesa. 1 Timoteo 3:4. È così. Colui che non è fedele quaggiù nelle minime cose, non può esserlo riguardo alle celesti. Luca 16:10-11. E, in quest'ottica, che dobbiamo comprendere il linguaggio di Gesù e le promesse dell'Apocalisse. A chi sarà dato? Il futuro dei credenti non sarà piatto, non saremo tutti uguali. Matteo 5,19. Non brilleremo tutti nella stessa maniera, non avremo tutti lo stesso premio. Romani 8,17. Non conosceremo e non serviremo Dio tutti nello stesso modo. Apocalisse 7,13-15. Non tutti. Occuperemo la stessa posizione. Matteo 20,23. Non tutti risorgeremo con la stessa gloria. Ebrei 11,35. Ma tutto sarà proporzionato alle vittorie che avremo perseguito qui in terra, a come avremo investito. Nessuno avrà delle scuse, perché Dio avrà distribuito dei doni a ciascuno, secondo le proprie capacità. Matteo 25,15. È vero che apparterranno al regno di Cristo tutti coloro che sono stati salvati per grazia mediante la fede, ma è altresì vero che colui che trascura o perde la possibilità di farsi tesori in cielo, di ottenere un premio, una corona, trascorrendo una vita cristiana senza frutti, senza consacrazione, senza riconoscenza, commette uno dei suoi più grossi errori, i cui effetti gli saranno visibili nell'eternità. È anche vero che siamo mancanti, che i figli di Dio in questo momento sono come dei brutti anatroccoli e solo in cielo. Si compirà per loro l'opera di Dio. Per questo la mia preghiera è che tutti i cristiani possano ricevere una piena ricompensa. 1 Giovanni 8. Il regno che Gesù ha promesso a coloro che avrebbero posto fede in Lui è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Matteo 25:34. Coloro che regneranno avranno delle corone che saranno riservate a ai guerrieri vittoriosi e sarà la corona della giustizia, 2 Timoteo 4:8, b a quelli che corrono come atleti nello stadio e sarà una corona incorruttibile, 1 Corinzi 9:25-27, c ai fedeli fino alla morte e sarà la corona della vita, Apocalisse 2:10, Giacomo 1:12, d agli operai disinteressati e sarà la corona d'onore, 1 Tessalonicesi 4:1, emod. Qualcuno potrebbe anche disprezzare il premio di una corona. Potrebbe anche accontentarsi di essere un figlio di Dio salvato per l'eternità. Ma chi ha un simile atteggiamento commette due grossi errori. Innanzitutto, chi non attende alle corone può mettere in serio dubbio di essere un figlio di Dio che corre verso il premio. Come chi corre una gara può mettere in dubbio se corre veramente, quando non cerca la vittoria. Inoltre, sarà umiliato quando tutti coloro che sono stati riscattati e avranno servito Cristo offriranno al loro Salvatore le proprie corone, perché solo Lui è degno di ogni onore e gloria. Non è certamente il momento di fantasticare, ma se non che è nulla di nascosto, che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia palesato, Marco 4:22, se non vi sono tenebre né ombra di morte dove potranno nascondersi i malfattori, Giobbe 34:22, mentre i perduti saranno svergognati perché i loro peccati saranno manifesti a tutti, Apocalisse 20:12-13, i salvati e redenti da Cristo, i cui peccati sono perdonati per l'eternità, sapranno e vedranno la povertà spirituale di chi non ha servito fede. L'apostolo Paolo scrisse: poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, 2 Corinzi 5:2-3, mentre l'apostolo Giovanni invita: ora, dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. 1 Giovanni 2:28, e il Dio Onnipotente avverte nel libro dell'Apocalisse: ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, per non andare nudo e non lasciare il vestito di lino finissimo, puro e risplendente, sono le opere giuste dei santi, Apocalisse 19:8, per cui nulla, ma proprio nulla, sarà di più umiliante che essere svergognati. E questo per l'eternità. Dicembre 2003. Ellero.